non ne aveva che rare notizie, quando i genitori di Vittorio avevano la bronchite e lo mandavano a chiamare. Alberto si faceva fare i vestiti da un sarto che si chiamava Vittorio Foa. Alberto diceva, mentre il sarto gli misurava il vestito, «Io mi servo da loro per il nome». E il sarto, compiaciuto, ringraziava. Difatti anche Vittorio si chiamava Foa, come quel sarto. Alberto diceva a Miranda, «Sempre bronchiti, sempre malattie stupide. Mai che mi tocchi di curare qualche bella malattia strana, un po' complicata, un po' strana. Io mi stufo, in fondo mi stufo, non mi diverto abbastanza». Invece a fare il medico si divertiva. Non voleva però confessarlo. Mia madre diceva, «Alberto ha una gran passione per la medicina». Diceva, «Voglio andare da Alberto a farmi visitare. Oggi ho un po' mal di stomaco». E mio padre diceva, «Ma che? Cosa vuoi che sappia quel salame di Alberto?» Diceva, «Hai mal di stomaco? Perché ieri hai mangiato troppo? Prendi una pillola? Ti do io una pillola». Mia madre ogni giorno passava da Alberto, che abitava di casa vicino a loro. Trovava Miranda sulla poltrona. Alberto usciva un momento dal suo studio in camice con lo stetoscopio sul petto e si scaldava al termosifone. Avevano, lui e mia madre, lo stesso vizio di star sempre attaccati al termosifone. Miranda se ne stava raviluppata nel plaid. Mia madre le diceva, «Muoviti, lavati la faccia con l'acqua fresca, andiamo a spasso, ti porto al cinematografo». Miranda diceva, «Non posso, devo restare a casa, aspetto mia cugina e poi ho troppo mal di testa». Alberto allora diceva, «Miranda manca di vita, è pigra, è fatta di materiale di seconda qualità». Miranda aspettava sempre le sue cugine, ne aveva tante. Alberto diceva, «Sono stufo di curare le tue cugine». E diceva, «Che città noiosa, Torino, come ci si annoia, non succede mai niente. Almeno una volta ci arrestavano, ora non ci arrestano più. Ci hanno dimenticato. Mi sento dimenticato, lasciato nell'ombra». La Paola ora era venuta anche lei a stare a Torino. Stava in collina in una grande casa bianca con una terrazza circolare che guardava sul Po. La Paola amava il Po, le strade e la collina di Torino e i viali del Valentino, dove un tempo usava passeggiare col giovane piccolo. Ne aveva avuta sempre una grande nostalgia, ma ora anche a lei Torino sembrava diventata più grigia, più noiosa, più triste. Tanta gente, tanti amici erano lontano, in carcere. La Paola non riconosceva le strade della sua giovinezza, quando aveva pochi vestiti e leggeva Proust. Adesso aveva molti vestiti, se li faceva nelle sartorie, ma faceva venire in casa la Tersilla, anche lei, e se la disputavano lei e mia madre. La Paola diceva che la Tersilla le dava un senso di sicurezza, le dava il senso della continuità della vita. Invitava a pranzo a volte Alberto e Miranda e Sion Segre, che era tornato dal carcere. Sion Segre aveva una sorella, Hilda, che stava di solito col marito e i figli in Palestina, ma veniva a Torino di tanto in tanto. La Paola e questa Hilda avevano fatto amicizia. Hilda era bella, alta, bionda, e andavano lei e la Paola con passi lunghi a spasso per la città. I figli di Hilda si chiamavano Ben e Ariel e andavano a scuola a Gerusalemme. Hilda a Gerusalemme faceva una vita austera e parlava soltanto di problemi ebraici, ma quando veniva a Torino a stare un po' dal fratello, le piaceva parlare anche di vestiti e andare a spasso. Mia madre, delle amiche della Paola, era sempre un po' gelosa e quando la Paola aveva una nuova amica, lei diventava di cattivo umore, sentendosi messa in disparte. Si alzava allora al mattino con un viso grigio, con le palpebre tutte pestate, e diceva «Oh, la catramonaccia!». Quell'insieme di tetraggine e di senso di solitudine, mescolato anche di solito a un'indigestione, mia madre lo chiamava «la catramonaccia». Con la catramonaccia stava rintanata in salotto e aveva freddo, si avviluppava negli scialli di lana e pensava che la Paola non le voleva più bene, non veniva a trovarla e andava con le sue amiche a spasso. «Mi stufo», diceva mia madre, «non mi diverto, sono stufa, non c'è niente di peggio che stufarsi, se almeno mi venisse qualche bella malattia». A volte le veniva l'influenza. Era contenta, perché le sembrava l'influenza una malattia più nobile delle sue solite indigestioni. Si misurava la febbre. Aveva 37,4. «Sai che sono malata!» diceva contenta mio padre. «Ho 37,4!» «37,4? È poco!» diceva mio padre. «Io vado in laboratorio anche con 39!» Mia madre diceva «Speriamo stasera!» Ma non aspettava la sera. Si misurava tutti i minuti la febbre. Sempre 37,4. Eppure mi sento male. La Paola era poi, dal canto suo, anche lei gelosa delle amiche di mia madre, non della Francis o della Paola Carrara. Era gelosa delle amiche giovani, quelle che mia madre proteggeva e assisteva e che si tirava dietro a spasso e al cinematografo. La Paola veniva a trovare mia madre e le dicevano che era uscita con una di quelle sue giovani amiche. La Paola s'arrabbiava. «Ma è sempre a spasso, non è mai a casa!» E poi s'arrabbiava la Paola quando mia madre dava la tersilla a una di quelle sue giovani amiche. «Non gli dovevi dare la tersilla», le diceva. «Ne avevo bisogno io per aggiustare i paltò dei bambini». «La nostra mamma è troppo giovane», si lamentava a volte la Paola con me. «Io invece avrei voglia di avere una mamma vecchia, grassa e con tutti i capelli bianchi. Una che stesse sempre a casa, che ricamasse delle tovaglie, come la mamma di Adriano. Mi darebbe un tale senso di sicurezza avere una mamma molto vecchia, tranquilla. Una che non fosse così gelosa delle mie amiche. Io la verrei a trovare e sarebbe lì, sempre serena, col ricamo, tutta vestita di nero e mi darebbe dei buoni consigli». Le diceva «Se ti stufi tanto, perché non impari a ricamare? Mia suocera ricama, passa le giornate ricamando». E mia madre diceva «Ma la tua suocera è sorda. Cosa ci posso fare io se non sono sorda come la tua suocera? Io mi annoio a star sempre chiusa in casa. Ho voglia di andare a spasso». Diceva «Figurati se imparo il ricamo. Non sono buona. Non so punciottare. Quando rammendo le calze al papà mi vengono fuori certi brutti punciotti che poi la Natalina deve disfarli». Aveva ripreso a studiare il russo da sola e a sillabare sul divano. E quando veniva la Paola a trovarla, le diceva le frasi della grammatica sillabando. La Paola diceva «Uff, che noiosa la mamma con questo russo». La Paola era anche gelosa di Miranda e le diceva «Vai sempre da Miranda, non vieni mai da me». Miranda aveva avuto un bambino, l'avevano chiamato Vittorio. La Paola aveva avuto nella stessa epoca una bambina. La Paola diceva che il bambino di Miranda era brutto. «Ha dei lineamenti brutti, grossolani», diceva. «Sembra il figlio di un ferroviere». Mia madre ora, quando andava a vedere il bambino di Miranda, diceva «Vado a vedere come sta il ferroviere». Mia madre e i bambini piccoli le piacevano tutti. Le piacevano anche le balie. Le balie le ricordavano il tempo che aveva piccoli i suoi bambini. Aveva avuto una collezione di balie asciutte da latte e le avevano insegnato canzoni. Cantava per la casa e diceva «Questa qui era della balia del Mario, questa della balia di Gino». Il bambino di Gino, Arturo, nato nell'anno che mio padre era stato arrestato, veniva in villeggiatura con noi e veniva anche la sua balia. Mia madre, quando c'era in casa questa balia di Arturo, stava sempre a chiacchierare con lei. Mio padre diceva «Sei sempre con le serve? Prendi la scusa di guardare i bambini e intanto chiacchieri con le serve. Ma è una donna così simpatica, Beppino. È antifascista. Ragiona come noi. Ti proibisco di parlare di politica con le serve». A mio padre gli piaceva dei suoi nipoti soltanto Roberto. Quando gli facevano vedere un nuovo nipote diceva «Però è più bello Roberto». Forse, essendo Roberto il suo primo nipote, era anche il solo che avesse guardato con un po' d'attenzione. Quando veniva il tempo della villeggiatura, mio padre prendeva in affitto una casa, sempre la stessa. Ormai, da anni, non voleva più cambiar posto. Era una grande casa di pietre grigie che guardava su un prato ed era a Gressoney, nella frazione di Perlotoa. Venivano con noi i bambini della Paola, il bambino di Gino. Ma il bambino di Alberto, il ferroviere, lo portavano a Bardonecchia perché Elena, la sorella di Miranda, aveva là una casa. Mio padre e mia madre disprezzavano Bardonecchia, non so perché. Dicevano che non c'era sole e che era un posto orribile. A sentirli sembrava che fosse un cesso. Mio padre diceva: una gran sempia quella Miranda. Poteva venire qui? Il bambino stava meglio qui che a Bardonecchia, di certo. E mia madre diceva: povero ferroviere. Il bambino tornava da Bardonecchia che stava benissimo. Era un bambino molto bello, florido e biondo. Non sembrava niente un ferroviere. Mio padre diceva: non sta mica male però. Curioso, Bardonecchia non gli ha fatto male. Eravamo andati qualche anno a Forte dei Marmi perché Roberto aveva bisogno d'aria di mare, ma mio padre al mare stava mal volentieri. Si metteva a leggere sotto all'ombrellone, vestito come in città, arrabbiato perché non gli piaceva la gente in costume da bagno. Mia madre, lei, faceva il bagno, però a riva perché non sapeva nuotare, e finché era nell'acqua se la godeva, prendeva le onde. Ma poi, tornando a sedere accanto a mio padre, si musoniva anche lei. Era gelosa della Paola, che se ne andava via in pattino in alto mare e non tornava mai. La sera la Paola andava a ballare alla capannina e mio padre diceva: tutte le sere va a ballare, che asina! Invece in montagna, nella casa di Perlotoa, mio padre era sempre contento, e così anche mia madre. Non venivano la Paola o la Piera se non per visite brevi. C'erano soltanto i bambini. Mia madre con i bambini, con la Natalina e le balie, stava benissimo. C'ero anch'io e mi annoiavo a morte in quelle villeggiature. E c'erano nella casa accanto alla nostra Lucio e la Francis. Andavano tutti vestiti di bianco in paese a giocare a tennis. E c'era anche l'Adele Rasetti in un albergo in paese, sempre uguale, piccola, magra, identica al figlio nel viso verde e tirato, dagli occhi acuti come punte di spillo. Raccoglieva insetti nel suo fazzoletto e li metteva in una zolla di muschio sul davanzale della finestra. Mia madre diceva: come mi piace l'Adele. Suo figlio ora lavorava a Roma con Fermi ed era un fisico famoso. Mio padre diceva: l'ho sempre detto che Rasetti è molto intelligente, però è arido, molto arido. La Francis veniva a sedersi nel prato su una panchina accanto a mia madre. Aveva ancora la racchetta nella sua custodia, la testa stretta in un elastico bianco. Parlava di una sua cognata che era in Argentina, la moglie dello zio Mauro, e diceva, rifacendole il verso: «Come no?» Mio padre le diceva: «Si ricorda quando da giovani andavamo in gita con la Paola Carrara e la Paola Carrara i crepaci li chiamava quelle buche dove ci si casca dentro?» E mia madre diceva: «E ti ricordi quando Lucio era piccolo e gli avevamo spiegato che in gita non bisogna mai dire di avere sete?» E lui diceva: «Ho sete, ma non lo dico». E la Francis diceva: «Come no?» «Lidia, non strapparti le pipite!» tuonava di tanto in tanto mio padre. «Non far malagrazie!» «Un po' con la Francis, un po' con la Adele Rasetti», diceva mia madre, «le giornate passano». Ma quando veniva la Paola a vedere i suoi bambini, mia madre diventava subito irrequieta e scontenta. Andava dietro la Paola passo per passo, la guardava mentre tirava fuori i suoi vasetti di creme per la pelle. Mia madre, anche lei, aveva tante creme per la pelle, le stesse, ma non si ricordava mai di metterle. «Hai la pelle tutta screpolata», le diceva la Paola. «Curati un po' la pelle. Devi metterti una buona crema nutriente tutte le sere». Mia madre portava in montagna sottane pesanti e pelose e la Paola le diceva: «Ti vesti troppo da svizzera». «Oh, che malinconia queste montagne», diceva la Paola. «Non le posso soffrire». «Tutti minerali», diceva poi con me, ricordando il gioco che usavamo fare con Mario. «L'Adele Rasetti è proprio un minerale puro. Io, con la gente così minerale, non sono più buona di starci». Ripartiva dopo qualche giorno e mio padre le diceva: «Perché non ti fermi un po' di più? Che asina che sei!» Andammo in autunno, io e mia madre, a trovare Mario, che adesso stava in un paesetto vicino a Clermont-Ferrand. Faceva l'istitutore in un collegio. Aveva fatto grande amicizia col direttore del collegio e sua moglie. Diceva che erano persone straordinarie, coltissime, oneste, come se ne trovano soltanto in Francia. Aveva nel collegio una stanzetta con una stufa a carbone. Si vedeva dalle finestre la campagna coperta di neve. Mario scriveva lunghe lettere a Parigi, a Chiaromonte e a Cafi. Traduceva Erodoto e armeggiava con la stufa. Portava sotto la giacca un maglione scuro col collo rivoltato che gli aveva fatto la moglie del direttore. Lui le aveva regalato, per ringraziamento, un cestello da lavoro. In paese lo conoscevano tutti. Lui con tutti si fermava a discorrere e lo portavano nelle case a bere le vin blanc. Mia madre diceva: «Com'è diventato francese!» La sera giocava a carte col direttore del collegio e sua moglie. Ascoltava i loro discorsi e ragionava con loro sui sistemi di insegnamento. Parlavano anche a lungo della soup che era stata servita a cena, se c'era o no abbastanza cipolla. «Com'è diventato paziente!» diceva mia madre. «Com'è ha pazienza con questi qua! Con noi non aveva mai pazienza, ci trovava noiosi quando era a casa. A me mi pare che questi sono anche più noiosi di noi». E diceva: «Ha pazienza soltanto perché sono francesi».